Io resto sempre un po' basito quando finisce questa canzone bellissima di apertura, un pezzo al piano composto e suonato da Rocco De Rosa. Sono da solo questa sera, sono da solo e nessuno mi sta ascoltando, il che in qualche modo mi rende anche le cose un po' più facili. Sono da solo perché l'altro K è complicato, è in un momento complicato e quindi la complicatezza richiede anche intimità, rifugio e sottrazione, sottrarsi da questo flusso, anche se estemporaneo e anonimo e un po' clandestino di contenuti, di cose. E capisco benissimo ed è perfettamente sensato che succeda così. Solo che era anche un po' di tempo che non andavamo in diretta e io cominciavo a sentire una certa forma di smania, di mancanza. Sono un po' fatto così, nel senso che quello che si ripete mi annoia e quello che manca mi attira. Quindi in qualche modo forse è anche una forma di metabolismo dell'esistente, se questa espressione vuol dire qualcosa. Comunque siamo qua. Queste sono le distopiche stanchezze, è una domenica sera, sono quasi le 11 E noi siamo così, sempre estemporanei, sempre al di fuori di ogni possibile schema promozionale. Non siamo su YouTube, non abbiamo un profilo Instagram, non facciamo le dirette su Twitch, perché queste sono conversazioni o monologhi, probabilmente come nel caso di questa sera, in cui cerchiamo semplicemente di condividere dei pezzetti di questo nostro percorso che è fatto di stanchezza, in qualche modo, di fatica, di arrancare rispetto a dei ritmi che sono imposti dall'esterno, e dall'altro lato è fatto di distopia e quindi di visioni, di cose che ci attorniano, che sarebbero inaccettabili in un momento di normalità, ma probabilmente la normalità non esiste più. E quindi ci ritroviamo a essere in qualche modo rapiti e affaticati nel seguire i ritmi di quello che ci accade intorno, e anche in difficoltà nel tentativo di decriptare, di comprendere e di trovare dei punti di vista, dei percorsi che abbiano un senso, che rendano significato. Tutta questa grossissima premessa fatta di paroloni e anche di frasi che forse i più possono pure suonare un po' confuse, anche a me in realtà di fatto suonano un po' confuse, perché quando si cerca di nominare, si cerca di spiegare, si cercano di trovare delle parole, a volte semplicemente diventa troppo complicata anche la spiegazione. Comunque, Distopiche stanchezza è una conversazione intima. Di solito dovremmo essere in due a raccontarci, io, K, e il mio socio K, a conversare, a raccontarci e cercare di capire questo presente in cui viviamo. E a volte sono da solo per molteplici accadimenti, e però questa è una sorta di conversazione radiofonica privata che abbiamo deciso di aprire all'ascolto pubblico, per quanto si tratti di un pubblico limitato, per necessità, anche per esperimento, per cercare di capire se come formula e come formazione può funzionare, può avere un senso. I pochi, in realtà non sono neanche così pochi rispetto a quelli che ci ascoltano, comunque i ritorni che abbiamo avuto sono estremamente positivi, e questo da un lato dà senso a quello che stiamo cercando di fare, e dall'altro stiamo comunque cercando di capire se vale la pena costruire un formato un po' più strutturato, magari proporlo a qualche radio, ma ci arriveremo forse con un tempo un po' più lungo. Diciamo, abbiamo bisogno anche noi di metabolizzare il nostro tentativo, no? Questa nostra conversazione. Comunque, ci sono un paio di modi in cui potete essere in contatto con noi. Il primo è un canale Telegram che si chiama Distopiche Stanchezze, e in questo canale è possibile commentare. È un canale pubblico, quindi chiunque si può iscrivere, chiunque cerchi su Telegram Distopiche Stanchezze può capitare su questo canale, e per ora siamo in pochissimi perché questo era il senso dell'esperimento all'inizio, ma stiamo cercando di iniziare ad allargare un po'. Potete commentare, potete scriverci su questo canale, quindi in qualche modo è anche una forma di discorso, di entrare in modo di entrare in relazione con noi. E l'altra possibilità che avete, visto che siamo comunque anonimi e estemporanei, un po' clandestini, è un canale Mastodon. Lo spiego ogni volta, ma credo che sia necessario cercare di fare un po' di formazione, cercare di dare spazio a canali alternativi. Mastodon è un social network che è open source, intanto, e che non è commerciale, quindi non c'è tracciamento di dati, non c'è pubblicità, ma soprattutto è decentralizzato, è federato, per cui chiunque voglia può costruirsi un proprio nodo e metterlo in relazione con gli altri all'interno del network. E Distopiche Stanchezze ha un profilo su Mastodon in uno dei nodi italiani, e il nodo italiano si chiama nebbia.fail, quindi è stanchediste@nebbia.fail, che è il nostro account Mastodon, dove potete seguirci. Condividiamo ovviamente i link a queste dirette, ma condividiamo anche i link ai podcast, ovviamente, perché ci sono anche i podcast su Archive, ne parleremo magari tra un po'. Ma magari ogni tanto condividiamo anche riflessioni, link e approfondimenti sui temi di cui cerchiamo di parlare in queste conversazioni, in questi monologhi, come è il caso di questa sera. Il mio socio K manca questa sera e mi manca, devo ammettere, perché dopo i primi esperimenti che avevo fatto in solitaria, essere in due a costruire questo dialogo, perché un dialogo voleva essere, è stata un'esperienza molto bella, soprattutto è stata una forma di tornare in radio, seppure a centinaia di chilometri di distanza e con anche una serie di accrocchi tecnologici che ci hanno portato via non poco tempo. È stato un modo di ritrovarci in radio, che è stata una delle prime passioni che ci ha unito e che ci ha fatto incontrare, ci ha fatto lavorare insieme più o meno 20 anni fa. E questo già come riflessione sul tempo che passa potrebbe essere sufficiente. Di solito in queste trasmissioni, in queste conversazioni, cerchiamo di mettere insieme qualche spunto musicale, ma cerchiamo di mettere insieme soprattutto qualche spunto di riflessione su quello che ci sta capitando, sull'idea, sulle idee, sulle criticità che possiamo usare, che possiamo sfruttare per cercare di capire non tanto e non solo questo nostro momento pandemico che ormai dura 2 anni, perché siamo a dicembre del 2021 e tutto è iniziato all'inizio del 2020, quindi ormai sono 2 anni, ma anche un discorso più ampio sulle prospettive che dal passato ci legano e ci portano a qui, quindi anche una forma di eredità o di radice che ci porta qui, in questo presente estremamente complesso da gestire, e ci provano a dare uno sguardo verso il futuro. Un futuro che è fatto di cambiamento climatico, che è fatto di una pandemia che sembra non finire mai, che è fatto di domande soprattutto su quello che potrà succedere, su quello che faremo, su quello che sarà possibile di qui a qualche anno. E in tutto questo, questa sera davvero mi piacerebbe, anche se cercherò di fare una puntata abbastanza breve, forse soprattutto per una ragione di monologicità, quindi di mancanza di dialogo. Però appunto, una delle cose su cui mi piacerebbe ragionare questa sera è proprio il fatto che ragioniamo in un orizzonte di distopia, no? Quindi spesso si dice, ma no, ma quello che stiamo vivendo è peggio di ogni possibile immagine negativa, distopica, di narrazione, di fantascienza. Ecco, quest'idea, questa narrazione, cioè forse in realtà bisognerebbe provare a... Invece che a subirla, bisognerebbe provare a scomporla, a dividerla negli elementi che la formano e cercare di capire forse qualcosa in più guardandola dall'interno come prospettiva. E quindi cercare di ragionare sul fatto che forse la catastrofe, forse la distopia non è l'unico orizzonte possibile, non è... l'orizzonte. In fondo, alla fine, ogni società, ogni momento, ogni società nella storia, quindi ogni momento della storia umana, gli esseri umani hanno pensato di essere nel momento critico, sulla soglia della catastrofe. E invece, forse questa è proprio davvero solo una questione di percezione del tempo e delle cose che viviamo. Perché forse come esseri umani siamo sempre in crisi, quindi non è il fatto che siamo in crisi adesso che questa crisi è la crisi che porterà alla catastrofe. Non serve forse neanche ragionare sul fatto che l'anno 1000 è stato visto come momento di distruzione, di fine, e poi l'anno 1000 è finito, quindi 1000 e 1000 non più 1000, però anche il 2000, nonostante il Millennium Bug e gli allarmi inutili sul Millennium Bug, perché di fatto niente è stato, anche il 2000 è passato senza catastrofe. E quindi noi siamo nel 2021 ormai, alle soglie del 2022 della nostra epoca occidentale, e continuiamo a costruire un immaginario che è fatto di film di fantascienza di Hollywood, che è fatto di narrazioni apocalittiche, che è fatto di ossessione antropocenica anche nella letteratura, nella percezione, nella narrazione. Forse, come diceva Belpoliti, non c'è una fine, non c'è una catastrofe finale, non c'è neanche un'apocalisse intesa come rivelazione. Forse stiamo abitando un tempo penultimo, e l'essere penultimo di questo tempo è la sua caratteristica principale, e quindi siamo testimoni di una fine che non finisce di finire. E quindi, anche se

è una vigilia della distruzione che negli anni 70, negli anni 60 anche credo in realtà, 65 esatto, parlava di guerra fredda, quindi parlava di possibile apocalisse nucleare, e siamo ancora qui nonostante questa minaccia di apocalisse nucleare. Però si parlava di vigilia di distruzione, si parlava di una guerra fredda che avrebbe distrutto il pianeta. E intanto io clicco e cerco i pezzi da mettere dopo. E quindi ecco, questo per ribadire il fatto che forse questa ossessione per la fine, questa ossessione di vivere un tempo definitivo, un tempo finale soprattutto, fa parte della percezione temporale dell'essere umano, della civiltà umana. E quindi non è uno stupore, non stupisce il fatto che oggi, in questo tempo in cui i cambiamenti climatici sono ancora più forti e inquietanti e che si presentano anche a volte come delle catastrofi localizzate, al di là di ogni dubbio, senza dubbio, però questi tempi comunque ci fanno pensare di essere sulle soglie di un momento decisivo, di un momento decisivo della storia umana, quindi di un'imminenza catastrofica, di un punto in cui la storia umana davvero si decide. Ecco, forse queste percezioni fanno parte di un'illusione, fanno parte appunto di un sistema culturale che ci proietta verso questo tipo di percezioni. E forse in qualche modo, e ci ragionavo qualche tempo fa, raccogliendo anche spunti da molte fonti, perché è un ragionamento che credo sia abbastanza diffuso, il fatto che ci sia un trionfo di serie TV, film e narrazioni anche di letteratura che prendono proprio la catastrofe, l'apocalissi, il disastro, il post-apocalittico come orizzonte. Ecco, forse questo in qualche modo, e penso anche alle serie più diffuse, forse questo in qualche modo è una forma culturale non solo per esorcizzare quello che temiamo stia per succederci, che davvero all'estremo arriva all'apocalisse zombie, ma nel mezzo a tutta una serie di sfumature che vanno dal dittatoriale alla catastrofe climatica, all'invasione aliena, eccetera. Ecco, credo che da un lato ci sia una necessità di relazionarsi con queste narrazioni che ci raccontano le ossessioni e le paure che noi stiamo vivendo in questo momento. Dall'altro c'è una forma di industria culturale che fa sì che questo tipo di narrazioni in qualche modo diventino una forma di addormentamento civile, per cui noi magari guardiamo una serie apocalittica in cui ci sono degli eroi che comunque lottano per una qualche forma di giustizia, e noi da spettatori sul nostro divano, con davanti il nostro computer, il nostro schermo, diamo a loro la responsabilità dell'azione. E quindi in qualche modo spostiamo fuori di noi la necessità di agire per cambiare qualcosa. E in questo senso questa forma di narrazione, che è comunque una forma di narrazione che fa parte di un'industria culturale molto forte, ci deresponsabilizza dall'agire direttamente nella nostra realtà. E quindi vediamo una sorta di apocalisse fittizia sui nostri schermi, più o meno grandi che siano, mentre fuori dalle nostre finestre c'è un'apocalisse reale, sempre con la mediazione del fatto che forse non è una vera apocalisse, ma sono semplicemente dei peggioramenti che si susseguono. E quindi evitiamo di guardare fuori per agire sui peggioramenti che si susseguono nel nostro mondo reale e ci limitiamo a dare ai personaggi di queste finzioni che agiscono su uno schermo la responsabilità della nostra azione. Quindi in qualche modo ci sentiamo, dice, vabbè, però lui sta facendo qualcosa, no? Quindi è come una sorta di interposta persona che agisce al nostro posto rispetto a quello che potremmo fare, a quello che dovremmo fare rispetto a quello che vediamo nel nostro quotidiano. E quindi in qualche modo queste narrazioni apocalittiche, queste narrazioni di fine di mondo, queste narrazioni catastrofiche sono anche una forma di deresponsabilizzazione individuale. Ora, con tutto che l'azione individuale rispetto a dei problemi sistemici è chiaramente minoritaria, per cui anche il fatto di dire noi come singoli, io come singolo ho un potere di agire rispetto a queste cose, è chiaramente un ragionamento fallace, nella misura in cui siamo davanti a dei problemi sistemici strutturali enormi, e davanti a questi problemi sistemici e strutturali si continua a pensare, almeno la narrazione collettiva dei media, della politica, la narrazione neoliberale continua a dirci che dipende tutto da noi, e questo in realtà è così dagli anni 70, cioè da quando ci sono state le prime campagne per le raccolte differenziate, che in realtà venivano dalle aziende produttrici di bibite che semplicemente non volevano più avere i costi da gestire dei vuoti a rendere, e quindi hanno detto facciamo le lattine di alluminio e diciamo alla gente che le può buttare dove vuole. Poi quando la gente buttava le lattine ovunque, e quindi gli stati, sì, stiamo parlando degli Stati Uniti, quindi gli stati stavano reintroducendo delle norme per dire dovete fare il vuoto a rendere perché sennò inquiniamo dappertutto, le aziende delle bibite, soprattutto, senza fare troppi nomi, hanno detto beh vabbè, fate la raccolta differenziata, e se il mondo è inquinato è colpa vostra perché non buttate le lattine nei contenitori per le lattine. Ecco, quindi questa individualizzazione della responsabilità su problemi sistemici è una cosa che sono ormai 50 anni che va avanti, e forse in questo senso le serie TV che parlano di apocalisse, di catastrofe, tutto ciò che ha a che fare con la narrazione del disastro ambientale in termini quantomeno mainstream, come si direbbe, dove lo stream non è uno stream of consciousness dello streaming di cui parlavamo l'altra volta, ecco, forse questo tipo di narrazione concorre a questa percezione, a questa deresponsabilizzazione nei confronti della situazione attuale. E quindi, a questo punto, possiamo anche parlare di terza guerra mondiale, come canta Louis en Circus. Mi sono svegliato con il sole che mi accecava un occhio, una città in riva al mare, ma la casa no, non la conosco. Fuori un caldo innaturale, riscaldamento globale, certo moriremo tutti, ma in infradito e Bermuda, dai, ci sta. Adesso sono dentro un treno, guardo gli altri passeggeri e penso che sarebbe bello chiacchierare, ma tutti hanno sempre da fare. Qualcuno guarda il cellulare, altri fanno finta di dormire, ed io vorrei vederlo deragliare, così potremo tutti urlare. Una guerra mondiale ancora, per cominciare una nuova era, per capire chi è l'nemico, per vederlo dritto in viso. Una guerra mondiale ancora, per vedere che faremo. Quando ero un ragazzo volevo fare una comune con le mie amiche e di miei amici in un grande casolare. Qualche anno dopo ci ho provato, ma non è andata un granché bene. Qualcuno poi si è innamorato, se n'è andato poi chi l'ha visto più. Adesso anch'io vivo da solo, certo è più che naturale. Mi hanno detto prenditi un cane, non voglio fare da padrone, e non perché non sia in grado di prendermene cura, ma solo perché sono un gatto io, e un gatto padroni non ne ha. Una guerra mondiale ancora, per cominciare una nuova era, per capire chi è il nemico, Perché forse se la fine del mondo arriva quando siamo in Bermuda in infradito, forse non è neanche così male, cantano i Zen Circus. Forse no, forse sì. C'è dell'ironia, ovviamente. Ma prima stavo citando uno scivolare su un piano ed è una citazione a cui sono particolarmente legato e vi spiego perché, cioè vi spiego perché in realtà so che almeno qualcuno mi sta ascoltando perché mi ha mandato dei messaggi e questo già è abbastanza confortante, ma al di là di questo che anche se devono essere delle conversazioni a volte sono monologhi, comunque spesso il senso della diretta c'è indipendentemente. Il discorso del piano inclinato per me è un discorso particolarmente interessante perché è qualcosa che viene da un'intervista di uno scrittore emiliano, Cavazzoni, Ermanno Cavazzoni, quando ancora, non credo esista più, ma quando ancora esisteva Rai Letteratura, e stiamo parlando forse di 14-15 anni fa, c'era un'intervista, c'era una video intervista a Ermanno Cavazzoni e la giornalista, forse questo l'ho anche già raccontato in un altro episodio di distopiche stanchezze, ma anche questa ciclicità, questa smemoratezza fanno parte di questo tipo di conversazione e di trasmissioni. E insomma, nell'intervista in cui la giornalista chiedeva allo scrittore, a Cavazzoni, ma com'è che hai deciso di cominciare a scrivere? La risposta è disarmante e mi trova talmente d'accordo che non saprei esprimerla con parole migliori, non solo per il fatto che lui è uno scrittore, ma che davvero inquadra la questione in maniera totale. E lui dice, ma io non ho deciso di scrivere. Dice, in realtà nella vita nessuno decide mai niente. Noi nasciamo su un piano inclinato e semplicemente scivoliamo giù. Non decidiamo le amicizie, non decidiamo i mestieri, non decidiamo gli accadimenti. Semplicemente noi su questo piano inclinato scivoliamo e quello che ci capita mentre scivoliamo, di incrociare altre persone, di incrociare altre situazioni, è quello che fa la nostra vita. Ma non ha niente a che fare con le nostre decisioni. E per me questa prospettiva è stata illuminante. Non solo, e se ci fosse l'altro K, questa cosa qui farebbe sfonderebbe una diga che tiene i pensieri. E non solo in prospettive cioraniane di assurdità dell'esistenza, ma semplicemente anche per rimettere al proprio posto la questione del libero arbitrio. Perché in fondo il libero arbitrio è sopravvalutato e lo sappiamo benissimo tutti che è così. Perché la nostra capacità cognitiva forse è solo un pezzetto di un enorme sistema fatto di diverse capacità cognitive, diverse dalla nostra umana, che però concorrono a una compressione, a una decifrazione del possibile, e all'interno di queste capacità cognitive ci sono le nostre, appunto quelle umane, quella che noi consideriamo come intelligenza, ma anche le capacità cognitive dei sistemi digitali, per esempio delle macchine, che hanno una forma di non tanto di comprensione, ma di gestione dell'informazione, del reale, e allo stesso tempo ci sono tutti i sistemi cognitivi che noi non consideriamo come intelligenza e che possono essere quelli dei funghi, delle piante, quelli degli esseri organici, quindi viventi in qualche modo, che però noi non consideriamo intelligenti semplicemente perché abbiamo una visione antropocentrica dell'intelligenza. Ecco, in questo senso, questo scivolare su un piano inclinato dovrebbe permetterci di incontrare mille tipi diversi di cognizione, se non vogliamo parlare di intelligenza, e allo stesso tempo dovrebbe permetterci di capire che la nostra cognizione, la nostra intelligenza è solo un piccolo piccolo punticino all'interno di questi sistemi. E quindi anche da questo punto di vista la nostra idea di catastrofe, di apocalisse, di fine del mondo perché noi siamo il centro del mondo cambia completamente di significato. Perché? Beh, perché se noi non siamo più il centro del mondo, se il mondo finisce noi siamo solo un pezzettino di questa cosa qui. E quindi in realtà, e qui mi vengono in mente dei brani della trilogia di Liu Cixin, lo scrittore di fantascienza cinese, che quando si ragiona sul fatto dice: ma voi siete insetti, come dire, vi schiacciamo. E uno dei personaggi del libro, non mi ricordo più se nel primo o nel secondo volume della trilogia, porta un altro a vedere, dice: ma guarda, aspetta, loro, gli alieni ci hanno detto siete insetti e vi schiacceremo. E lui dice: guarda, guarda qua. E in realtà davanti ci sono i campi completamente distrutti dalle cavallette. E questa distruzione e questa presenza di insetti dice: in realtà questi insetti stanno facendo molto di più di quello che noi potremmo fare come esseri umani. Quindi da quel punto di vista, che cambiare la percezione, cambiare il proprio punto di vista, appunto, per incartarsi con le parole, forse ci fa capire che magari l'insetto non è così da poco come noi esseri umani siamo tentati di definirlo, e che forse ci sono molte diverse modalità di percezione, anche della, non tanto della catastrofe, ma quanto del possibile, e che quindi in queste differenti percezioni del possibile forse ci sta anche il fatto che non c'è una catastrofe, non c'è un'apocalisse, ma semplicemente c'è un cambiamento, c'è un passaggio, e che ci sono diverse forme di cognizione, diverse forme di entrare in relazione che fanno parte di questo passaggio. E visto che si parla di modalità di entrare in relazione, di forme diverse, ho scoperto questa sera per caso che i Chemical Brothers hanno fatto un pezzo che non so neanche davvero se sia una cover di Eve of Destruction, che è il pezzo che abbiamo sentito all'inizio, un pezzo di Barry McGuire del 1965. E quindi forse per spostarci nel presente, in una differente percezione del presente, forse ha senso ascoltare anche la versione che i Chemical Brothers hanno fatto di questo titolo. Bye. Ecco, questa era la versione, tra l'altro io non capisco perché FreeTube, che è l'applicazione che uso per evitare il tracciamento, la pubblicità e tutte le rogne di YouTube, ha tenuto in memoria il fatto che aveva ascoltato il primo minuto scarso di questa canzone, quindi l'ha fatta partire avanti. Dopo, quando farò il montaggio per il podcast, cercherò di recuperare questa cosa e cercherò di mettere il pezzo intero. Come avete sentito, probabilmente è molto diverso rispetto al pezzo di Barry McGuire del 1965. E mi fa piacere in realtà, perché sto ricevendo qualche messaggio di chi mi ascolta, soprattutto messaggi anche legati alla musica. Cercherò di capire se riesco a incastrare, perché sto già andando avanti da 45 minuti e domani comunque è lunedì nonostante tutto, e quindi non so quanto vado avanti ancora. Però ci sono dei messaggi, delle suggestioni che sono interessanti, e quindi saluto chi ascolta queste distopiche stanchezze, e ne approfitto per ricordare che abbiamo un canale Telegram che si chiama Distopiche Stanchezze, su cui potete seguire, avere tutti gli aggiornamenti rispetto alle dirette, ai podcast quando vengono pubblicati, ma avete inoltre la possibilità di commentare. Quindi se io mando il link per far partire la diretta, cioè per far partire a cui voi trovate la diretta, sotto quel link potete commentare durante tutta la diretta, quindi è un modo per restare in contatto con noi e soprattutto per intervenire nella trasmissione. Vi ricordo anche che abbiamo un canale Mastodon, che è sempre un social network non commerciale, senza pubblicità e senza tracciamento, che è fatto in maniera federata, per cui ci sono tanti nodi che comunicano uno con l'altro senza avere un nodo centrale che gestisce tutto, come Twitter o come Facebook, per esempio, e che noi per queste distopiche stanchezze abbiamo scelto uno dei nodi italiani, e quindi il nostro profilo è stanchediste@nebbia.fail. E quindi se volete avere informazioni, non solo i link alle dirette, ma anche i link a quando pubblichiamo i podcast delle dirette, ma magari anche se volete avere qualche link in più, qualche condivisione e riflessione che condividiamo su queste reti, in particolare Mastodon, ma anche un po' Telegram, potete abbonarvi al canale Telegram, crearvi un profilo Mastodon su Nebbia Fail o su uno degli altri nodi italiani o meno, a seconda di quello che vi va, e potete comunque seguirci su questi canali. Parlavamo di piani inclinati, parlavamo di apocalissi mancate, ma mancate non tanto nel fatto che mancano le apocalissi, perché in qualche modo prima o poi verranno anche in forma individuale, in forma limitata, in forma diversa, in forma impensabile rispetto a quello che immaginavamo, ma soprattutto a me verrebbe da dire ci piace anche un po' perderci e confondere le acque. Se l'altro K fosse qui con me, butterebbe in questo momento una citazione cioraniana che complicherebbe il problema dell'interpretazione della complessità del reale. E questo fa parte del gioco, come fa parte del gioco il fatto che l'altro K in questo momento non ci sia, e forse un'oretta fa mi ha detto vado a dormire perché non ne posso più. E anche questo però fa parte del discorso sulle stanchezze. Leggevo, ma questo lo riserverò a una prossima puntata in cui anche l'altro K ci sarà, perché è un discorso un po' più approfondito sui ragionamenti che stiamo cercando di fare sulla stanchezza di questo periodo. Leggevo delle note di Block Mia Topofila su Nebbia.fail, che ragionava su una serie di termini legati alla stanchezza, e sono disagio e dissesto, per esempio. E in queste sue riflessioni sulla stanchezza c'è molto di quello di cui parliamo anche in questi episodi, in questa trasmissione, quindi di questa percezione di disallineamento, di disarmonia rispetto a quello che si pretenderebbe da noi, rispetto a quello che ci si aspetta da noi, ma anche rispetto a quello che noi stessi penseremmo come normale, come reale approccio giusto alla vita, soprattutto in questo periodo. E in realtà la vita è fatta di cedimenti, la vita è fatta di ruggini, è fatta di di incespicamenti, di ingarbugliamenti, e il fatto che questi incespicamenti, questi ingarbugliamenti non siano presi in conto, siano sempre meno presi in conto e siano sempre meno considerati come normali, nonostante un periodo di pandemia, di emergenza, di eccezionalità che dura da ormai 2 anni, la dice lunga sull'idea di normalità, sulla percezione di normalità a cui forse da troppo tempo ci siamo adattati e a cui ci stiamo continuando ad adattare. Adesso voi probabilmente sentirete la mia voce che cambia, ma perché sto cercando di... avevo creato una forma di scaletta e sto cercando di guardare se in questa forma di scaletta c'è qualcosa che stavo perdendo, che avevo saltato. Nel frattempo sto continuando a ricevere dei messaggi, ma per me è abbastanza complicato perché devo cercare di capire dove devo leggerli, perché li ricevo, li vedo. Ok, va bene, insomma, mi sto perdendo, ma questo fa un po' sempre parte del gioco, come voi sapete. E quindi siamo qui, nel senso che io sono qui da solo a parlare e avevo cercato, anche perché poi in realtà il significato di questa trasmissione è anche allargare un po' le maglie, quindi allargare le maglie del discorso, quindi trovare altre voci, altri interlocutori, tanto in fondo ci chiameremo sempre tutti K, anche se siamo persone diverse ma interveniamo in questa trasmissione. Ci chiameremo sempre tutti K perché l'individualità non è importante nella misura in cui aggiunge un frammento di discussione di qualcosa che riguarda tutti collettivamente, e quindi da quel punto di vista ognuno aggiunge il suo pezzetto di senso, il suo pezzetto di percorso che fa sì che la ricchezza della narrazione diventi molto più forte. E nonostante questo ci sono comunque delle tentazioni apocalittiche che secondo me in qualche modo sono anche un po' sane, soprattutto perché rappresentano un'istanza, come dicevo prima, della percezione umana, per cui l'uomo si è sempre percepito come vivente in un'epoca fondamentale della storia dell'umanità, come in un punto di passaggio, come in uno snodo epocale dell'esistenza. Ecco, probabilmente questi snodi epocali non esistono neanche così tanto, e probabilmente non esistono neanche così tanto a livello della storia individuale. Mi ricordo una pagina di Tondelli che diceva: no, perché si pensa che il giorno della laurea sia quello che cambia la vita, o il giorno importante X, eccetera. In realtà la vita si definisce in molti momenti minori, in molti momenti a cui non viene neanche da considerare troppa attenzione, che è un po', per certi versi, il discorso che faceva Cavazzoni sul fatto di nascere, di scivolare su un piano inclinato. E quindi per dare comunque un po' la fascinazione dell'apocalisse, perché vedo che questa trasmissione sta andando avanti da circa 50 minuti e quindi, visto che anche sono da solo e magari un paio di cosine da farvi ascoltare ce le ho ancora, forse si approccia un po' il momento della fine, anche se poi questi discorsi sono tutti abbozzati, sono tutti embrionali, perché le riflessioni che li toccano porterebbero molto più lontano, e forse anche delle dirette che potrebbero continuare tutta la notte. Però appunto cerchiamo magari di tenere anche da un lato la fascinazione di questa apocalisse, no? Di questo antropocene dagli orizzonti distruttivi e catastrofici che magari all'interno di queste sfumature, di queste sfaccettature, ci sono delle narrazioni che possono essere interessanti, almeno, quantomeno, possiamo buttarla comunque in musica. Yeah! ecco, mi stavo perdendo. Credo che il salto audio sia stato abbastanza significativo. Su questa canzone almeno lo è stato nelle mie cuffie. Questi erano i Voodoo Glow Skulls con un pezzo che si intitola Living the Apocalypse, giusto per tornare in questo ambiente catastrofe, che in realtà fa parte un po' del nostro immaginario, perché almeno per quanto mi riguarda abbiamo nel senso di ho pensato sempre di essere sulla soglia della catastrofe. Però come cantavano i Zen Circus che abbiamo ascoltato prima in un'altra canzone, loro dicono: io non ho bisogno di leggere i giornali per capire che sono in crisi, anzi io forse sono in crisi, sono sempre stato in crisi e forse questa è la mia natura. Forse fa parte delle nature sensibili il fatto di essere sempre in crisi, quantomeno in relazione alla realtà che ci troviamo davanti quotidianamente. Io ammetto una certa stanchezza rispetto, adesso mi sono ricordato del pezzo che volevo mettere dopo, poi ve lo presenterò perché ci sono una serie di cose che sarebbero da dire rispetto a questo pezzo, ma comunque, dicevo, ammetto una certa stanchezza perché mi sembra che sia ormai mezzanotte. E tra l'altro l'altra cosa che poi ha anche a che fare con una questione, credo, generazionale, se ne parlava anche con K in uno degli ultimi episodi. E leggevo anche oggi su Twitter di una persona che diceva: io non ricordo il momento in cui mi metto il pigiama è diventato il momento più bello della mia giornata. Che in qualche modo ci riporta al discorso della stanchezza, come una carissima amica che mi ha mandato un messaggio vocale in questi giorni e mi diceva: cavolo, mi fa estremamente piacere ascoltandovi capire che la stanchezza che io percepivo, che di cui accusavo il fatto di essere pendolare tra due città lontane, il lavoro, la mia età, eccetera, in realtà forse non ha così tanto a che vedere con quello che faccio in questo momento, ma piuttosto con quello che vivo in questo momento. Quindi con la situazione generale che stiamo condividendo in questo momento. E questa cosa mi ha fatto enormemente piacere, non perché mi faccia piacere che questa amica sia e si senta stanca, perché ci mancherebbe, ma la cosa che mi ha fatto piacere è proprio il fatto che il nocciolo centrale di questa pseudo trasmissione, di questa non trasmissione radiofonica, è proprio il fatto che dobbiamo cercare di mettere in comune delle stanchezze che ci sembrano private, perché le nostre stanchezze non sono private ma sono collettive, sono condivise, sono politiche, e quindi il fatto di condividerle, di metterle insieme è già un'azione politica enorme rispetto ai tempi di individualismo a cui siamo abituati, in cui siamo abituati ad agire nel nostro quotidiano. E quindi in questo senso il nostro cercare di condividere, il nostro cercare di parlare, di raccontare queste piccole cose, di mettere in comune qualche canzone, di condividere qualche pensiero, qualche riflessione, qualche citazione di libro o di riflessione un po' più strettamente attuale, come di solito fa l'altro K, perché che la cosa è buffa, perché di solito sono sempre stato un po' io, quello un po' più letterario. In realtà è bello che sia l'altro K, e mi manca anche in questo, che condivida dei brani letterari. Però è proprio in questo il senso di queste trasmissioni, di queste condivisioni, no? Per cercare di trovare un punto in comune, di trovare una narrazione che sia comune rispetto al nostro sentire, che è fatto di un po' di stanchezza, un po' di disagio, un po' di distopia. E siamo arrivati a un'ora ormai, un'ora nel senso di 60 minuti banalmente e 39 secondi, come mi dice il conto di OBS Studio, anche se sono solo le 11:15, forse è arrivato il momento di chiudere, perché abbiamo comunque anche stasera tirato fuori una serie di elementi, e ognuno di questi elementi potrebbe costruire una trasmissione che potrebbe durare tutta la notte, soprattutto anche con i vostri contributi, commenti, un po' di musica. E quindi cerchiamo di fermarci qui. Vi ricordo, per chi ascolta per sbaglio in diretta, perché è capitato su questo link, ma anche per chi ci ascolta per sbaglio su un podcast che ha una pagina archive che si chiama Distopiche Stanchezze, su cui ci potete trovare, potete riascoltarci in differita in vari formati, potete anche scaricare queste trasmissioni. Vi ricordo che abbiamo un profilo Telegram che si chiama Distopiche Stanchezze, un canale a cui potete abbonarvi per avere le informazioni, soprattutto i link per le dirette per i podcast, ma su cui potete anche commentare, quindi potete interagire con noi. E abbiamo anche un profilo Mastodon, l'ho detto all'inizio, è un social network che non ha interessi commerciali nella vostra vita e che, su cui quindi potete partecipare senza preoccupazione di essere tracciati o di ricevere della pubblicità, perché non succede. E siamo su uno dei nodi italiani di Mastodon, che è nebbia.fail, e quindi potete trovarci su stankedist@nebbia.fail su Mastodon. Detto questo, passo a introdurvi, come si sarebbe detto nei tempi andati, l'ultimo pezzo che metterò stasera e con cui vi saluterò. Ed è un pezzo che a me piace, o quantomeno piaceva, ma il gruppo che lo suona mi piace un po' meno e mi sta anche un pelino antipatico in qualche modo, però credo che all'interno di questo pezzo ci siano degli elementi che ritornano un po' con i discorsi di fine, di percezione della fine, di vita individuale, di disagio e di fastidio individuale, anche rispetto a un sistema più grande di disagio e di fastidio. In qualche modo loro sono una band, non so, l'aggettivo che mi viene un po' più così sulla punta della lingua è un po' paraculi, però hanno fatto delle cose che secondo me sono belle e che continuo ad ascoltare. Poi musicalmente possiamo discuterne all'infinito se vale, se non vale, eccetera, però questo non fa neanche troppo parte del senso di questa trasmissione. Diciamo, è uno spunto. Anzi, più gli spunti possono far discutere, più può essere pure interessante. Detto questo, io spero vivamente che per il prossimo appuntamento, se avete sentito un click, era una mia caviglia. Spero vivamente che per il prossimo appuntamento ci sia anche l'altro K. E se l'altro K non c'è, magari cerchiamo altri K che possano far parte di questa identità collettiva mutante che cerca di ragionare sul presente. Nel frattempo io credo che mi farò una camomilla e andrò a dormire, perché domani è pur sempre lunedì. Buonanotte. Difficile resistere al mercato, amore mio, di conseguenza andiamo a cerca di rivoluzione vena artistica, per questo le avanguardie erano ok, almeno fino al 66, ma ormai la fine va da sé, è inevitabile. Anna pensa di soccombere al mercato, non lo sa, perché si è laureata anni fa, credeva nella lotta, adesso sta paralizzata in strada, finge di essere morta, scrive con lo spray sui muri che la catastrofe è inevitabile. Vede la fine in metropolitana, nella puttana che le si siede a fianco, nel tizio stanco, nella sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi al centro commerciale, nel sesso orale, nel suo non eccitarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo, vede i titoli di coda nella casa e nella libertà.